A bordo campo di Dario Ricci. Davvero particolare il viaggio che oggi si appresta a fare a bordo campo. È la musica che ci trascina nelle atmosfere del Mediterraneo, perché oggi arriviamo a Lampedusa, terra di frontiera, terra al centro delle cronache in queste settimane per il flusso continuo di migranti dal Nord Africa, terra in cui si gioca anche a calcio. È incredibile dirlo, no? A sentire quanto ci hanno raccontato in questi giorni e quanto abbiamo visto direttamente dalle cronache. Ebbene, Lampedusa è anche la Lampedusa del calcio, e che ha vissuto a suo modo, in modo del tutto particolare, queste difficili settimane di gestione dell'emergenza immigrazione che arriva dal Nord Africa. Com'è il calcio a Lampedusa? Beh, lo andiamo a scoprire, e la prima cosa che scopriamo è che per essere calciatori a Lampedusa bisogna saper fare un po' tutto. Bisogna sì sapere giocare a calcio, ma anche inventarsi responsabile della sicurezza del campo sportivo del paese, e saper anche dare una mano in società, magari nel ruolo di consigliere. Tutti questi ruoli sono impersonificati dal nostro primo ospite, Mirko Solina. Benvenuto a bordo campo in diretta con noi da Lampedusa. Buonasera a tutti. E niente, la realtà di Lampedusa è questa qua. Bisogna fare un po' tutto, diciamo, bisogna fare un po' tutto: il giocatore, il dirigente, l'allenatore, diciamo, i nostri limiti, diciamo, sono questi qua. E visto dove siamo, in un'isola, non possiamo, diciamo, comprare un allenatore, un giocatore, siamo tutti isolani. Insomma, calciomercato ridotto all'osso, diciamo così, però i risultati non mancano, perché Lampedusa Calcio, squadra di prima categoria siciliana, quest'anno ha conquistato una bella salvezza sul campo, tra l'altro colori giallo-blu come il grande Verona di Osvaldo Bagnoli, mi viene in mente, quindi insomma citazione anche calcisticamente dotta, no Mirko? Sì, colori giallo-blu, i nostri colori sociali, e rispecchiano Lampedusa, diciamo, come il nostro mare e come il nostro sole giallo-blu. L'arrivo di migliaia di persone dal Nord Africa, con tutti i problemi gravissimi dal punto di vista organizzativo e strutturale che abbiamo visto, hanno toccato anche la tranquilla vita del calcio lampedusano, no? Come è cambiata questa routine quotidiana in questi mesi? Anche noi, diciamo, abbiamo accolto nel nostro campo sportivo, diciamo, mettendo a disposizione gli spogliatoi per fare le docce. Abbiamo dato il campo, no? Sono che abbiamo dato per accogliere, diciamo, in maniera giusta, farle lavare. Per quasi un mese non ci siamo potuti allenare, e avendo a disposizione solo questo campo sportivo ci siamo arrangiati un po' andare a calcetto, un po' in mezzo alla strada, correndo in mezzo alla strada. Certo. L'emergenza c'è stata, dispiace per questi ragazzi, diciamo, che scappano da guerre, ci dispiace un po', diciamo. Noi abbiamo fatto di tutto per accoglierli, dargli, diciamo, una speranza di libertà. C'era stata anche l'idea e in qualche modo la possibilità sfiorata di organizzare una partita, no, tra Lampedusa Calcio e magari qualcuno di questi ragazzi, che lo vediamo dalle immagini in TV, hanno spesso la maglia della nostra nazionale, dei grandi campioni delle squadre di calcio di Serie A. Insomma, un pallone da far rotolare in amicizia è sempre un bel modo di rompere il ghiaccio e di superare le diffidenze, no? Poi però questa partita non si è fatta, se non sbaglio, vero Mirko? Sì, volevamo organizzare, visto che c'era questa massiccia presenza di tunisini, diciamo, che giocavano anche loro a calcio, avevamo deciso di organizzare una partita amichevole, ma per ordine di sicurezza e di ordine pubblico la partita non si è potuta fare, non siamo riusciti a farne, però diciamo, alcune ragazze intrufolando nel campo hanno giochicchiato un pochettino, dai. Qual è l'immagine che più ti rimane negli occhi di queste settimane in cui Lampedusa è stata al centro dell'attenzione generale e soprattutto si è trovata ad affrontare questa emergenza? Le immagini sono tante, vedere questi poveri disperati scendere dal porto tutti bagnati. Chi senza scarpe, chi senza vestiti, diciamo, è una stata, diciamo, per noi lampedusani è stata una brutta esperienza, però c'è da dire del positivo anche che loro, quando vedevano Lampedusa, diciamo, gioivano, ridevano, diciamo, si sentivano, si respiravano quell'aria di libertà che cercano, diciamo. Eh sì, insomma, ci si sente un po' come l'America, no? Per quello che era l'America per i nostri migranti a inizio secolo, no? Loro sperano di trovare la mera qua a Lampedusa, però diciamo Lampedusa è piccola, siamo 5.000 abitanti, abbiamo fatto il massimo però dopo due mesi eravamo impreparati a tutto questo e è ricaduto, diciamo, tutto verso di noi, noi lampedusani, perché non vedevamo, diciamo, nessun aiuto neanche da parte dello Stato e ci siamo un po' scoraggiati, ecco qua. Direi che però poi l'orgoglio dei lampedusani ha fatto miracoli e sta facendo miracoli in questo momento difficile. Siamo in collegamento con gli spogliatoi del Lampedusa Calcio, fra poco inizierà uno degli ultimi allenamenti stagionali perché il campionato volge al termine e allora vicino a Mirko Solina c'è il vicepresidente del Lampedusa Calcio. Allora, vicepresidente Pavia, dicevamo orgoglio dei lampedusani che si è visto anche sul campo di calcio perché avete conquistato una onorevole salvezza. Parlavamo di quotidianità stravolta dall'emergenza, ma la quotidianità del Lampedusa Calcio è comunque sempre abbastanza difficoltosa, no? Perché ogni volta che si va in trasferta ci si alza alle 5 e si torna alle 9 di sera. Ma infatti, no, a prescindere dell'invasione che c'è stata, tra virgolette, anche nella nostra quotidianità di campionato che facciamo regolarmente, ci abbiamo le nostre sempre difficoltà, che facciamo delle vere e proprie trasferte come una squadra di calcio, diciamo, di Serie A. Abbiamo le nostre, dobbiamo prendere l'aereo, fare la nostra trasferta, ristorante, bus, pullman, andare sul campo, poi tornare la sera a prendere di nuovo il volo, tornare. Abbiamo delle grosse somme per sostenere questa squadra. Quanto vi costa l'attività di una stagione? Grosso modo, per mantenere tutta la squadra dobbiamo avere un budget di 60.000 euro per tenere la squadra per tutta la stagione. Togliendo che non facciamo, in questo caso non abbiamo fatto i playoff, che c'era buona possibilità di farle. Se dobbiamo fare i playoff, che ci sono altre 4 gare, quindi ci abbiamo ancora ulteriore spesa da aggiungere. Tra l'altro, insomma, con tutti questi spostamenti aerei siete già pronti per la Champions League, Cerchiamo, vediamo se per il prossimo anno, se tutto va bene. Abbiamo avuto anche la nostra visita delle varie istituzioni, il Presidente del Consiglio, anche il Presidente della Regione Lombardo, abbiamo chiesto anche noi qualche piccolo finanziamento per la stagione successiva. Speriamo che ci facciamo per la prossima stagione, facciamo non solo il campionato un pochettino a livelli più superiori di quest'altro. Voi siete un po' la nazionale di Lampedusa, anche perché a livello di infrastrutture sportive l'isola non è che offra molto, vero? A parte il campo sportivo. No, come sport, adesso è iniziata una scuola calcio dei ragazzi da un paio d'anni, stiamo aspettando ai ragazzi che stanno tirando su questa squadra di calcio, questa scuola calcio, sono ragazzi che sono del 90, 92. Il prossimo anno saranno 5 che si inseriranno sulla squadra grande, la nazionale, e vediamo se riusciamo a integrarli, a fare un buon campionato. Speriamo bene. Vicepresidente Pavia, le chiedo ancora un'ultima cosa prima poi di entrare nello spogliatoio e parlare con l'allenatore e alcuni calciatori. Sì. Questa esperienza così, per alcuni aspetti, traumatica, sorprendente di questi sbarchi in continuazione, di questa mescolanza col Nord Africa e con la gente che vuole arrivare in Italia e in Europa, ecco, secondo lei, da uomo di sport, che traccia lascerà, che traccia sta lasciando a Lampedusa e nella sua gente? attualmente siamo rimasti un pochettino, ci guardiamo ancora in faccia di tutto quello che è successo, ancora negli occhi si vede proprio, le nostre facce non sono quelle di normalissime giornate così. Adesso siamo in fase estiva, ci sono tutte le strutture che stanno cercando di iniziare di nuovo la stagione turistica, speriamo con non grosse difficoltà. Le nostre facce sono un pochettino ancora perplesse, speriamo che superiamo, non ci tutti sperano, rimangono in attesa che non ci sarà ancora un'altra invasione, perché sennò qua non sappiamo più cosa fare. Comunque adesso siamo tranquillizzati perché l'isola è libera, oggi c'è una bellissima giornata, c'è un mare stupendo, siamo tornati di nuovo a Lampedusa. Cerchiamo adesso di parlare solo di sub, di pesce, di sport, cultura generale, dobbiamo ritornare di nuovo la Lampedusa della nostra quotidianità normale, speriamo che non ci sarà ancora ulteriori sbarchi, così cerchiamo di iniziare le nostre attività comuni che facciamo di solito. A bordo campo. Ancora a Lampedusa in questa puntata di A Bordo Campo, finora abbiamo parlato di calcio, sì, ma anche di quella che è stata il grande flusso migratorio che in questo mese, in queste settimane si è spinto dal Nord Africa a Lampedusa. Adesso parliamo però anche un po' di calcio, perché questo Lampedusa Calcio, prima categoria, ha ottenuto un'ottima salvezza, ha sfiorato i playoff, merito dei ragazzi lampedusani, ma anche merito del loro allenatore Giacomo Colapinto. Benvenuto mister a bordo campo. Buonasera a voi. Allora mister, qua questo Lampedusa a chi si ispira? Al Milan di Allegri, al calcio bailado di Leonardo? Ci dica un po' quali sono i suoi mentori, quali sono i suoi riferimenti. Potremmo fare di più, però purtroppo abbiamo avuto questa emergenza qua e non ci siamo potuti neanche allenare bene. Anzi, ci è andata bene, vai. Senta, tra l'altro i suoi ragazzi, per essere una prima categoria, immagino che giocate a calcio la sera, ma il giorno si lavora, eh? Che lavoro fanno? Infatti, sì. Chi è manovale, chi lavora alimentare, negozi, lavoricchiano tutti comunque. Lei per esempio è mister a tempo pieno, non credo, che fa? No, purtroppo. Lavoro in un negozio di ceramiche, ferramenti. Insomma, quindi se arriva la sera all'allenamento arrivo pure stanchino anch'io, ognuno c'è i suoi. Senta, dal punto di vista tattico, a parte scherzi, però come l'ha impostata questa squadra? Giochiamo un 4-4-2 classico, dobbiamo correre, questo è il motto qua, dobbiamo correre. Purtroppo queste categorie sono fatte così, se non si corre non si vince. Certo, quindi grande preparazione fisica, un po' insomma calcio totale all'olandese, diciamo così. Benissimo, il lavoro è giusto. Speriamo che l'altro anno ci va meglio, perché sono dei nuovi arrivi pure anche come ragazzini della scuola calcio. Certo, che arrivi qualche talento. Senta, tra l'altro abbiamo visto in questi giorni le immagini delle TV, no? Tanti dei migranti che sono approdati sulle coste di Lampedusa avevano le magliette dei campioni della nostra Serie A, della nazionale di calcio. Ecco, per un uomo di sport e di calcio come può essere lei, che effetto le facevano quelle immagini, mister? L'effetto... gente come noi, gente che aveva bisogno d'aiuto, in poche parole, perché si vedevano anche come parlavano, come si comportavano, non erano male, va, e le brave persone. Oggi dovevamo organizzare una partita di calcio, solo che c'è stata rinviata, no? Il motivo non si sa, qui la legge non era norma. Sì, insomma, diciamo che magari si poteva anche chiudere un occhio, no? Perché forse era una bellissima cosa. Magari poi trovava anche qualche talento buono per la squadra, perché anche per questo. Mister Colapinto, io intanto le auguro buon lavoro. Ci dia anche un assaggio di quello che sarà il Lampedusa Calcio del prossimo anno. Qualche novità? L'ambizione è che bisogna andare in promozione. E l'altro anno, speriamo che l'anno giusto, quest'anno abbiamo lavorato poco, però la squadra c'è, si può fare molto di più con questa squadra. E allora abbiamo sentito Giacomo Colapinto che è pronto a disegnare il Lampedusa Calcio per la prossima stagione. Però andiamo a sentire anche la voce di chi in campo ci sta e addirittura con la fascia al braccio, la fascia di capitano. Benvenuto Giovanni Luca, 24 anni, centrocampista, capitano appunto del Lampedusa Calcio. Benvenuto a bordo campo, Giovanni. Grazie, buonasera. Allora Giovanni, questo 4-4-2 molto atletico di mister Colapinto è difficile da digerire, perché da quello che ci ha detto bisogna correre parecchio, preparazione fisica deve essere fatta a puntino. Ti ci ritrovi dentro? Sì. Allora sì, la condizione del mister è un po' difficile da interpretare, la condizione fisica diciamo che nei primi mesi del campionato c'era, ci allenavamo un po' di più, andava tutto a posto, i risultati venivano, eravamo quinti in classifica, poi anche un po' per colpa nostra abbiamo un po' mollato, però siamo riusciti ad arrivare alla salvezza matematica tranquillamente. Parlaci un po' anche del girone e delle vostre avversarie, perché so che le categorie più basse in Sicilia sono parecchio competitive, insomma non è che si tira indietro la gamba. Giochiamo in prima categoria con delle squadre che fanno parte della provincia di Palermo. Alla fine in queste categorie la differenza la fanno gli uomini d'esperienza, quelli che per parecchi anni appunto giocano in queste categorie. Noi siamo una squadra abbastanza giovane. Come ti dicevo, io sono il capitano, ho 24 anni, poi abbiamo ragazzi del 90, del 93, però piano piano stiamo cercando di costruire questo gruppo per la prossima stagione. Il tuo campione preferito, capitano, quello a cui ti ispiri? A me piace molto, molto De Rossi, anche se ultimamente non si sta comportando bene. Nella vita di tutti i giorni, qual è la tua professione, di cosa ti occupi? Io allora, lavoro nel panificio di mio padre, lavoro abbastanza faticoso, pieno di sacrifici, alla sera c'è l'allenamento, ogni due settimane facciamo la trasferta, ci dobbiamo alzare alle 5 del mattino per andare a Palermo a fare appunto questa partita. Ecco, ti chiedo invece dal punto di vista simbolico, emotivo, morale, questa esperienza cosa lascia, cosa sta lasciando a voi lampedusani, a voi uomini di sport, perché poi forse chi conosce i sacrifici dello sport riesce forse a capire anche sacrifici e sofferenze ben più importanti, ben più significative, no? Allora la situazione a Lampedusa è stata drammatica. Ballo ha passato perché ormai la situazione si è tornata di nuovo alla normalità. I giorni sono stati un po' difficili perché noi non siamo abituati a questa situazione. Ecco, per il futuro cosa ti aspetti per il futuro di Lampedusa? Speriamo che il nostro governo riesca a sistemare un po' la situazione, perché questa è una bellissima isola che vive grazie al lavoro dei suoi abitanti, che si basa sulla pesca e sul turismo. Allora capitano, ti lascio agli ultimi allenamenti della stagione con l'in bocca al lupo per una grande prossima annata per il Lampedusa Calcio e soprattutto l'in bocca al lupo per il futuro della vostra splendida isola. Grazie, crepe il lupo. Queste le voci del calcio di frontiera, del calcio a Lampedusa. Ebbene, ci piace commentare questa realtà che vi abbiamo raccontato oggi a bordo campo con il presidente del Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini, CSI, che farà una parte del cammino di a bordo campo proprio insieme a noi. E allora, benvenuto presidente Achini. Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Presidente, tante volte lo sport riesce ad arrivare dove la politica e i contrasti etnici, sociali non arrivano. Voi del CSI lo sapete bene proprio perché lavorate a contatto con lo sport di base, con i giovani, vero? Sì, è proprio così, lo sappiamo bene noi, lo sanno bene tutte le società sportive di base di questo paese. Può sembrare strano, ma c'è un luogo in Italia dove i temi dell'immigrazione e dell'integrazione sono superati. È un luogo un po' curioso, particolare, una trentina di metri quadri, fatto come nei centri di accoglienza, spesso di docce, di panchine. Questo luogo è lo spogliatoio sostanzialmente. Ogni società sportiva sa che nel suo spogliatoio spesso ci sono ragazzi